In viaggio con Tommy, alla scoperta dello straordinario perduto di Gianluca Nicoletti. Ho comprato in un negozio di giochi, di scherzi e di mascheramenti una maschera in gomma da dottore della peste. Mi sembra adattissima al momento in cui stiamo vivendo. Sono tutti terrorizzati dal virus che dovrebbe falcidiare l'intera umanità, ma che in realtà al momento, almeno alle nostre latitudini, non fa più vittime di quante ansie ne faccia un normale raffreddore. Si parla tanto delle mascherine contro il contagio, delle mascherine protettive. Mi sembra fuori del tempo e fantasticamente reale comprare questa maschera da dottore della peste. E ancora più assurdo mi sembra farla indossare a Tommy e farlo giocare con me e lui, con quel becco da uccello, con quegli occhi chiusi dietro una retina che sembra quasi quel sinistro dottore, il medico di Pinocchio, quelli che vengono a prenderlo e determinano la sua malattia finale. In realtà è un ragazzone giocoso, con la testa riccia, costretta dall'elastico della maschera, che gioca con il suo papà, eterno bambino, figlio di suo figlio, a fare il mostro e a spaventarlo. Chi sei? Io sono Moccio. Chi sono sei? Moccio. E come fa un mostro? Dov'è Moccio? Il mostro? Che mostro sei? Ah. Oddio! Ma come ti chiami? Tommaso Righetti. Ma sei vestito da cosa? Il carnevale. Da carnevale? Cioio. E cos'è questa maschera? Caiomi. Chi sei? Tommaso Righetti. Ma perché sei vestito da mostro? Cioio. Un mostro? Caiomi. Spaventa. Fai il mostro. E beh, spaventi un cavolo così. Più spaventoso. Ancora di più spaventoso. Beh, abbastanza spaventoso. Viaggiamo. Ta-da! A volte penso che viaggiare con un ragazzo autistico, adulto, grande, praticamente un uomo, anche se la sua testa è quella di un eterno bambino, rappresenti una scoperta fuori dal comune. Non è che lo dico per farmi coraggio o per fingere a me stesso che sia totalmente normale quello che in realtà capisco e so con certezza essere eccezionale. Eccezionale non perché io compia delle gesta memorabili, ma eccezionale perché è un'eccezione. È qualcosa che non sta nella regola. Non è normale che un padre di 65 anni si porti dietro un uomo, tenendolo per mano, tenendolo sotto braccio, chiedendogli ogni istante come stai, di cosa hai bisogno, hai freddo, hai fame, vuoi andare in bagno, vuoi dormire, vuoi che ti pulisco gli occhiali, vuoi guardare l'iPad, vuoi guardare fuori dal finestrino, dimmi qualcosa. Ecco, tutte queste domande continue, incessanti, una persona che ti risponde a monosillabi, ti dice pochissime cose. Certo che è l'eccezione. Un uomo di 65 anni, se ha figli dell'età dei miei figli, li vede raramente, ogni tanto, di sfuggita, elemosina la loro presenza, e cerca in qualche maniera di rendersi interessante ai loro occhi. Abbozza, motteggia, simula, millanta. Insomma, è una continua guerra di conquista. Io in realtà non ho nulla da conquistare. Anzi, sono già prigioniero e sono io ad essere stato conquistato. Conquistato da una sorta di essere che, in fondo, è sì il mio sorvegliato speciale, ma è anche il mio carceriere. Io non posso muovermi quando c'ho lui accanto e nessun altro si occupa di lui. E allo stesso tempo lui non può andare da nessuna parte quando io lo sorveglio. Sarebbe pericoloso anche semplicemente uscire per un attimo e lasciarlo in questa stanza d'albergo. Cosa potrebbe accadere? Gli verrebbe un attacco di panico, aprirebbe la finestra e forse cercherebbe di fare come Peter Pan, allargare le braccia e prendere il volo. La famiglia Cambi è una dinastia di castellani acquisiti. Vivono nel castello Mackenzie, una sorta di delirio anacronistico, un castello rinascimentale in una collina che sovrasta Genova, costruito da un fantasioso eclettico architetto che è quel Coppedè che ha dato nome a un quartiere di Roma. È un castello a tutti gli effetti, con i suoi cunicoli, con i merli, con le torri, con i saloni, le scalinate, pieno di statue, pieno di mostri, pieno di draghi, pieno di sotterranei, pieno di oggetti misteriosi, pieno di cavalieri, pieno di principesse, pieno di sogni per un bambino che ancora pensa che esiste Harry Potter. In questo castello siamo andati per parlare con Matteo Cambi, il signore della casa d'aste, che probabilmente ci aiuterà a mettere all'asta oggetti fantastici per realizzare un nostro sogno fantastico, quello di poter dare struttura al nostro laboratorio per ragazzi autistici, dove costruiranno opere d'arte, dove costruiranno meccanismi, congegni, dove si affideranno all'elettronica, alla tecnologia, alla fantasia, all'arte, alla fuga. Ma tutto questo ancora è un sogno. Allora, il castello è stato costruito a cavallo tra l'8 e il 900 dall'incontro di Evan Mackenzie, che era questo assicuratore ricchissimo, una delle compagnie assicurative più grandi d'Italia, con Gino Coppedè. Gino Coppedè, architetto di una famiglia di artisti fiorentini. Mackenzie veniva nato a Firenze da una famiglia scozzese, si trasferisce a Genova e vuole portare un pezzo di Toscana e di Rinascimento, del quale lui era appassionato, a Genova, per cui parte da un edificio preesistente e si fa costruire completamente questo castello, che è nato dall'idea di una villa con torre e si è trasformato poi nel Castello delle Meraviglie, nelle quali poi ha aggiunto tutti gli elementi del Rinascimento. Addirittura nel sotterraneo c'è una grotta con le stalattiti e le stalagmiti ricostruita completamente. Che senso aveva? Faceva parte sempre di questa idea di stupire un po' con qualcosa di fuori dall'ordinario, per cui alla fine del giro che poteva far fare i suoi ospiti all'interno delle stanze, li conduceva giù nei sotterranei, dove ha ricostruito queste grotte con elementi di grotte autentiche e stalattiti fatte invece apposta. C'era un fiume che scorreva dentro la grotta, un ponticello, la barchetta, e una visione molto romantica. Quest'asta fuori dall'ordinario, come la vedi te, come la immagini? Che gamma di oggetti metterai all'asta? Allora, stiamo raccogliendo un po' le cose più disparate, perché oltre ai due punti di partenza e d'arrivo, che sarebbero i fossili e gli scheletri di dinosauri come cose più antiche e i viaggi spaziali come cose più moderne, in mezzo ci sarà tutta una serie di oggetti che attraverseranno veramente tutte le epoche, che andranno dalla scultura in marmo magari di soggetto particolare, abbiamo delle cose di soggetto erotico o di soggetti particolari, fino a magari il quadro antico che ha un soggetto non convenzionale per l'epoca. Abbiamo la Vanitas, abbiamo delle cere particolari, dei giocattoli antichi, quindi veramente tutto quello che va un po' oltre, al di fuori dell'ordinario in senso globale, anche quello che normalmente magari noi abbiamo difficoltà a collocare nelle singole aste. Ci sono tante cose anche di arte contemporanea, perché nell'arte contemporanea spesso gli artisti hanno proposto qualcosa di che ha rotto gli schemi, insomma. Esistono ancora collezionisti che hanno le Wunderkammer, una cosa di altre epoche. Ancora, diciamo, nella contemporaneità c'è gente che raccoglie oggetti strani, meravigliosi, singolari. Allora, il concetto di Wunderkammer è senz'altro di un'epoca passata, però oggi, incredibilmente, sta ritornando, perché oggi chi colleziona non vuole più l'oggetto necessariamente prezioso, ma vuole qualcosa che possa stupire chi entra in casa sua, e questo era il concetto della Wunderkammer, quindi fargli trovare non il prezioso quadro del 500, di Lotto, di Bellini, ma un qualcosa che colpisca veramente l'ospite che entra in casa. Quindi secondo questo filone oggi è molto attuale, diciamo, la Wunderkammer. Ho visto quelle chimere, quelle cose stranissime, pesci con le corna, con i denti da sciacallo, ecco, cosa erano? Sono i cosiddetti scherzi di natura, cioè le cose che la natura ha fatto e andando fuori dal canone normale, almeno quello che ci possiamo immaginare. Poi ci sono nella natura appunto queste cose che sembrano costruite quasi ad arte dall'uomo, ma invece fanno parte del mondo naturale, anche se lo conosciamo un po' meno magari. Qua sta passando la storia dell'informatica in pochi secondi. Stiamo raccontando tutto quello che può accadere in un tablet di un analfabeta digitale messa a contatto con altre tre amiche che vogliono capire come mai non riescono a trovare il loro biglietto nel loro smartphone. E c'è una consultazione tra signore ad altissima voce. Devo dire, è il sottofondo ideale che ci accompagna in questo viaggio di ritorno dal primo shooting. Partiamo da Genova Principe, ci andiamo verso Roma, ci vorranno 4 ore di Freccia Bianca, senza wifi naturalmente, quindi siamo tutti collegati all'hotspot del mio telefono. Tommy ha la priorità nell'intrattenimento visivo e quindi si è fregato lui il mio iMac e si sta guardando le sue ricette di cucina, che è il suo passatempo preferito. Tommy è dimagrito di 15 kg circa negli ultimi 3 mesi guardando soltanto ricette di cucina, le guarda in maniera ininterrotta. È specializzato soprattutto in un canale giapponese dove c'è una signora che fa dei dolci bellissimi: crema, mascarpone, latte, cioccolata, latte condensato, ci mette di tutto, ci mette. Lui guarda ore e ore questo che si appaga. Io mi sto restaurando il mio alluce che si è distrutto durante uno degli shooting. Eravamo a Reggio Emilia nella premiata ditta Panini, la fortuna delle figurine dei calciatori. Pensa bene di prendere in mano, come peso della storia dell'intrattenimento fanciullesco degli anni 50, un rotolo di bustine delle figurine, che erano dei grossi rotoli apparentemente leggerissimi. Io avevo l'impressione, l'immaginavo, di poter prendere in braccio un rotolo di carta igienica un po' più grosso, uno Scottex, diciamo, va, carta da cucina. Dico, lo prendo, che ci vuole, bastano 2 dita. Lo tiro su mentre ero nel pieno delle riprese e mi cade rovinosamente su un piede, tanto che io sono uscito con un'esclamazione colorita che non è proprio una bestemmia, ma è quella forma umbro-toscana di mascherare la blasfemia con frasi colorite che assomigliano per assonanza fonetica all'innominabile nome della deità bestemmiata, e mi cade su un piede. Naturalmente fingo nulla, sorrido, continuo e finisco l'intervista. Non ho il coraggio di togliermi scarpe e calzino fino a sera, perché i vari componenti della troupe mi hanno terrorizzato: guarda se l'unghia è spezzata, guarda se esce sangue, guarda se è fratturato il dito. Non avevo il coraggio di vedere quello che è accaduto dentro la scarpa. Solo nottetempo, rientrato in albergo, ero dalle parti di Savona, ho tolto con molta circospezione scarpe e calzino e mi sono accorto, in effetti c'era un'unghia nera. Avevo già l'impressione di avere un piede zombie. Cosa fa una persona in quell'occasione? Ho fotografato l'unghia nera e l'ho messa subito su Instagram e ho dato a tutti la prova del mio piede zombie. Nella stanza accanto il regista Massimiliano Sbrolla stava riversando il girato. Vedendo lui su Instagram l'unghia del piede zombie, ha pensato bene di fornire la prova complementare dell'evento. Quindi ha estrapolato dal girato, con una definizione trasmettibile via streaming, il pezzetto in cui mi cade il rotolo sull'alluce, devastandolo, omettendo in maniera pietosa la mia esclamazione, che sì, per assonanza non era proprio una bestemmia, ma per una persona magari che ha un pregiudizio nei miei confronti, come tale sarebbe potuta essere stata interpretata. A Savona siamo passati per quello che sembra essere un normale negozio di computer, ma se si fa un po' di attenzione si vedrà che sono macchine datate, sono vecchi computer Apple, dal capostipite di tutti i computer, fino a quelli che sono stati i progenitori dei nostri smartphone, dei nostri tablet, delle macchine che ogni giorno ci fanno compagnia e rappresentano la periferica della nostra coscienza. A raccoglierli, radunarli, curarli con amore e forse, speriamo, a metterne qualcuno all'asta per noi è Alessio Ferraro, che è un consulente informatico che da qualche anno è diventato il fulcro di tutti i collezionisti di antichi computer Apple. Sembra strano che già esista una sorta di modernariato delle macchine per lavorare, delle macchine per disegnare, delle macchine per scrivere, delle macchine per comunicare, delle macchine per fuggire e per sognare. Come nasce l'idea di un museo della Apple? Cosa sono degli appassionati che mandano qua quello che tengono nelle loro cantine? L'idea del museo è in realtà proveniente da molti anni fa, perché partiamo addirittura dal 2002, siamo quasi a 20 anni dall'inizio di questa avventura. E tutto è cominciato da un ritrovamento di un materiale in un magazzino di un negozio dismesso che sarebbe stato distrutto, e invece noi, trovandolo e avendo la possibilità di poterlo recuperare, abbiamo subito avuto l'idea di rimetterlo in condizioni di funzionare e di farlo vedere alle persone e al pubblico, perché comunque sia la storia dell'informatica è una storia recente, ma molti non la conoscono, e quindi oggetti che provengono dagli anni 70 sono in realtà archeologia dell'informatica, per cui da lì è nata subito l'idea di costituire un'associazione no profit, che poi è diventata una onlus, e l'avventura ha preso immediatamente il decollo, perché abbiamo scoperto che moltissime persone in Italia, ma non solo in Italia, anche all'estero, avevano nelle proprie abitazioni o nei propri negozi moltissimi oggetti dagli anni 70 in avanti, che sapute dall'idea del museo senza scopo di lucro, hanno deciso di farceli avere per incrementare il patrimonio. Qual è il pezzo più vecchio, più antico e più, diciamo, più di valore che avete? Allora, il pezzo più antico relativamente alla storia di Apple è il primo Apple II. Il primo Apple I lo abbiamo avuto per un periodo, adesso ne abbiamo una sua riproduzione. Però abbiamo un altro pezzo particolare che è del 1977 ed è la prima insegna fatta realizzare a mano da Steve Jobs, proprio per l'introduzione sul mercato dell'Apple II, per la costituzione dell'azienda. E questo pezzo particolarissimo è un'insegna di grandi dimensioni, con il logo originale colorato, ed è un pezzo unico al mondo. Siamo in una tenuta dove si fabbrica il parmigiano, ci sono tante mucche, ci sono dei capannoni pieni di forme di parmigiano. Tommy va pazzo per il parmigiano, quando condisce le sue penne al sugo ne vorrebbe tanto. Tommy ama gli animali di grossa taglia, Tommy detesta i piccoli animali, Tommy ama i cavalli e prova a vedere se riesce a amare anche le mucche. Mucca Carolina, vai Tommy, vai, va a salutare. La mucca pazza. Non pesta tutta quella merda però, Tommy, dai, guarda, quella lì è cacca. Qui, chiamala, mettiti qua, lì Tommy, vieni qui. Lì, non pestare la cacca, poi dopo c'è la macchina, poi la porti dentro. Chiamela, di mucca, vieni. Mucca. Chiamela. Mucca. Chiamela. Vieni mucca. Ecco, vedi che viene, guarda, eccola, guarda. Vedi, questa è la mucca Carolina. Vedi? Sì. Sta lì. E se mangiano e fanno il latte, fare il parmigiano. Senti. Il rapporto che lega un genitore anziano al proprio figlio autistico adulto è un rapporto fantastico, capace di uscire dal dominio della realtà e entrare in quello leggendario del racconto fiabesco. mi sembra che può essere assimilabile al rapporto tra un vampiro e la sua vittima. Non mi sento vittima e non sento lui vampiro succhia sangue, però in realtà un po' di sangue me lo succhia. Ogni giorno mi dà un piccolo morsetto, se ne prende un po', però mi lascia in vita, perché in fondo l'unico aspetto positivo di quando si è morsi da un vampiro è quello che il vampiro sì ti succhia il sangue, ma non te lo toglie mai tutto, se no non saresti la sua riserva di vita, se no non gli serviresti a nulla. E in cambio di quel sangue che ti succhia ogni giorno, di quel po' di vita che ti porta via, ti regala l'immortalità. E noi genitori di ragazzi non autosufficienti ci sentiamo immortali, ci sentiamo pronti a sfidare ogni intemperie, ogni limitazione del tempo. Sappiamo e imponiamo a noi stessi di essere sempre giovani, di stare sempre bene, di essere sempre efficienti, di non avere davanti nessun altro obiettivo che quello di dimenticare che la nostra angoscia è un figlio che ci possa sopravvivere. Il viaggio con Tommy prosegue. Presto una nuova tappa e nuovi incontri fuori dell'ordinario.